ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Per cercar di dare una certa consistenza a quella mia nuova vita campata nel vuoto, mi misi a pensare ad Adriano Meis, a immaginargli un passato, a domandarmi chi fu mio padre, dove ero nato, eccetera. Posatamente, sforzandomi di vedere e di fissare bene tutto nelle più minute particolarità. Ero figlio unico. Su questo mi pareva che non ci fosse da discutere. Più unico di così. Ah, eppure no. Chissà quanti sono come me, nella mia stessa condizione, fratelli miei. Si lascia il cappello e la giacca con una lettera in tasca sul parapetto di un ponte su un fiume e poi, invece di buttarsi giù, si va via tranquillamente in America o altrove. Si pesca dopo alcuni giorni un cadavere irriconoscibile, sarà quello della lettera lasciata sul parapetto del ponte e non se ne parla più. È vero che io non ci ho messo la mia volontà, né lettera, né giacca, né cappello, ma sono pure come loro, con questo di più, cioè che posso godermi senza alcun rimorso la mia libertà. Han voluto regalarmela e dunque... Dunque, diciamo figlio unico. Nato, sarebbe prudente non precisare alcun luogo di nascita. Come si fa? Non si può nascere mica sulle nuvole. Levatrice la luna, quantunque in biblioteca abbia letto che gli antichi, fra tanti altri mestieri, le facessero esercitare anche questo e le donne incinte la chiamassero in soccorso col nome di Lucina. Sulle nuvole no, no, ma su un piroscafo sì, per esempio, si può nascere. Ecco, Benone, nato in viaggio. I miei genitori viaggiavano per farmi nascere su un piroscafo. Via, sul serio, una ragione plausibile per mettere in viaggio una donna incinta prossima a partorire. O che fossero andati in America i miei genitori. Perché no? Ci vanno tanti. Anche Mattia Pascal, poveretto, voleva andarci. E allora queste 82.000 lire, diciamo che le guadagnò mio padre là in America. Ma che, con 82.000 lire in tasca avrebbe aspettato prima che la moglie mettesse al mondo il figliolo comodamente in terraferma e poi, baie, 82.000 lire un emigrato non le guadagna più così facilmente in America. Mio padre, a proposito, come si chiamava? Paolo Meis, mio padre. Paolo Meis s'era illuso come tanti altri, aveva stentato 3-4 anni, poi avvilito aveva scritto da Buenos Aires una lettera al nonno. Ah, un nonno, sì, un nonno, io volevo proprio averlo conosciuto, un caro vecchietto, per esempio come quello che era sceso testé dal treno, studioso di iconografia cristiana. Misteriosi capricci della fantasia. Per quale inesplicabile bisogno e donde mi veniva di immaginare in quel momento mio padre, quel Paolo Meis, come uno scavezzacollo? Ecco sì, egli aveva dato tanti dispiaceri al nonno, aveva sposato contro la volontà di lui e se n'era scappato in America. Doveva forse sostenere anche lui che Cristo era bruttissimo, e brutto davvero, e sdegnato, l'aveva veduto là in America, se con la moglie, lì per partorire, appena ricevuto il soccorso dal nonno, se n'era venuto via. Ma perché proprio in viaggio dovevo essere nato io? Non sarebbe stato meglio nascere addirittura in America, nell'Argentina, pochi mesi prima del ritorno in patria dei miei genitori? Ma sì. Anzi, il nonno s'era intenerito per il nipotino innocente. Per me, unicamente per me, aveva perdonato il figliolo, così io, piccino, avevo traversato l'oceano e forse in terza classe, e durante il viaggio avevo preso una bronchite e per miracolo non ero morto. Ecco, Benone, me lo diceva sempre il nonno. Io però non dovevo rimpiangere, come comunemente si suol fare, di non essere morto all'ora di pochi mesi, no? Perché in fondo che dolori avevo sofferto io in vita mia? Uno solo, per dir la verità. Quello della morte del povero nonno, col quale ero cresciuto. Mio padre, Paolo Meis, scappato e insofferente di giogo, era fuggito di nuovo in America dopo alcuni mesi, lasciando la moglie e me col nonno e là era morto di febbre gialla. A 3 anni io ero rimasto orfano anche di madre e senza memoria perciò dei miei genitori, solo con queste scarse notizie di loro. Ma c'era di più. Non sapevo neppure con precisione il mio luogo di nascita. Nell'Argentina, va bene, ma dove? Il nonno lo ignorava perché mio padre non gliel'aveva mai detto o perché se n'era dimenticato e io non potevo certamente ricordarmelo. Avevo già effettuato da capo a piedi la mia trasformazione esteriore. Tutto sbarbato, con un paio di occhiali azzurri chiari e coi capelli lunghi scomposti artisticamente, parevo proprio un altro. Mi fermavo qualche volta a conversare con me stesso innanzi a uno specchio e mi mettevo a ridere. Adriano Meis, uomo felice. Peccato, peccato che debba essere conciato così. Ma via, che te ne importa? Va benone, se non fosse per quest'occhio di lui, di quell'imbecille, non saresti poi alla fine tanto brutto nella stranezza un po' spavalda della tua figura. Fai un po' ridere le donne, ecco, ma la colpa in fondo non è tua. Se quell'altro non avesse portato i capelli corti, tu non saresti ora obbligato a portarli così lunghi, e non certo per tuo gusto. Lo so, vai ora sbarbato come un prete, pazienza. Quando le donne ridono, ridi anche tu, è il meglio che tu possa fare. Vivevo peraltro con me e di me, quasi esclusivamente. Scambiavo appena qualche parola con gli albergatori, coi camerieri, coi vicini di tavola, ma non mai per voglia d'attaccar discorso. Dal ritegno, anzi, che ne provavo, mi accorsi che io non avevo affatto il gusto della menzogna. Del resto anche gli altri mostravano poca voglia di parlare con me, forse a causa del mio aspetto, mi prendevano per uno straniero. Ricordo che, visitando Venezia, non ci fu verso di levare dal capo a un vecchio gondoliere che io fossi tedesco, austriaco. Ero nato sì in Argentina, ma da genitori italiani. La mia vera, diciamo così, estraneità era ben altra e la conoscevo io solo. Non ero più niente, io. Nessuno stato civile mi registrava, tranne quello di Miragno, ma come morto, con l'altro nome. Non me ne affliggevo. Tuttavia per austriaco no, per austriaco non mi piaceva di passare. Ora, nell'ozio, cominciavo a prendere l'abitudine di riflettere su tante cose che non avrei mai creduto potessero, anche per poco, interessarmi. Veramente ci cascavo senza volerlo e spesso mi avveniva di scrollare le spalle seccato. Ma di qualche cosa bisognava pure che mi occupassi quando mi sentivo stanco di girare, di vedere. Per sottrarmi alle riflessioni fastidiose e inutili, mi mettevo talvolta a riempire interi fogli di carta della mia nuova firma, provandomi a scrivere con altra grafia, tenendo la penna diversamente di come la tenevo prima, e a un certo punto però stracciavo la carta e buttavo via la penna. Io potevo benissimo essere anche analfabeta, ma chi dovevo scrivere? Non ricevevo né potevo più ricevere lettere da nessuno. Questo pensiero, come tanti altri del resto, mi faceva dare un tuffo nel passato. Rivedevo allora la casa, la biblioteca, le vie di Miragno, la spiaggia, e mi domandavo, sarà ancora vestita di nero Romilda? Forse sì, per gli occhi del mondo. Che farà? E me la immaginavo anche la vedova pescatore che imprecava, certo, alla mia memoria. Seguitai per qualche tempo a viaggiare. Volli spingermi oltre l'Italia. Visitai le belle contrade del Reno fino a Colonia, seguendo il fiume, a bordo d'un piroscafo. Mi trattenni nelle città principali, a Mannheim, a Worms, a Magonza, a Biegen, a Coblenza. Avrei voluto andare più su, in Colonia, più su della Germania, almeno in Norvegia, ma poi pensai che io dovevo imporre un certo freno alla mia libertà. Il denaro, che avevo meco, doveva servirmi per tutta la vita, e non era molto. Avrei potuto vivere ancora una 30 anni, e così, fuori d'ogni legge, senza alcun documento tra le mani che comprovasse la mia esistenza reale, ero nell'impossibilità di procacciarmi un qualche impiego. Se non volevo dunque ridurmi a mal partito, bisognava che mi restringessi a vivere con poco. Fatti i conti, non avrei dovuto spendere più di 200 lire al mese. Pochine, ma già per 2 anni avevo anche vissuto con meno, e non io solo. Mi sarei dunque adattato. In fondo, ero già un po' stanco di quell'andar girovago sempre solo e muto. Istintivamente cominciavo a sentire il bisogno di un po' di compagnia. Del primo inverno, se rigido, piovoso, nebbioso, quasi non m'ero accorto tra gli svaghi dei viaggi e nell'ebbrezza della nuova libertà. Ora, questo secondo, mi sorprendeva già un po' stanco, come ho detto, del vagabondaggio e deliberato a impormi un freno. E mi accorgevo che, sì, c'era un po' di nebbia, c'era, e faceva freddo. Ma accorgevo che per quanto il mio animo si opponesse a prendere qualità dal calore del tempo, pur ne soffriva. Mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, giacché, come un uccello senza nido, non potevo più oltre rimanere se proprio dovevo compormi una regolare esistenza. Ma dove? In una grande città o in una piccola? Non sapevo risolvermi. Chiudevo gli occhi e col pensiero volavo a quelle città che avevo già visitate, dall'una all'altra, indugiandomi in ciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via, quella tal piazza, quel tal luogo, insomma, di cui serbavo più viva la memoria. E dicevo, ecco, io vi sono stato. In quanti luoghi ho detto, qua vorrei aver casa, come ci vivrei volentieri. E ho invidiato gli abitanti che, quietamente, con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, potevano dimorarvi senza conoscere quel senso penoso di precarietà che tiene sospeso l'animo di chi viaggia. Questo senso penoso di precarietà mi teneva ancora e non mi faceva amare il letto su cui mi ponevo a dormire, i vari oggetti che mi stavano intorno. Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini che esso evoca e aggruppa, per così dire, attorno a sé. Certo, un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa, ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura non si trova nell'oggetto per sé medesimo. La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi irraggiandolo di immagini care. Né noi lo percepiamo più qual esso è, ma così, quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le nostre abitudini vi associano. Nell'oggetto, insomma, noi amiamo quel che ci mettiamo di noi, l'accordo, l'armonia che stabiliamo tra esso e noi, l'anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi. Or, come poteva avvenire per me tutto questo in una camera d'albergo? Ma una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla? I miei denari erano pochini, ma una casettina modesta, di poche stanze. Piano, piano, bisogna vedere, considerare bene tante cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con una valigia in mano, oggi qua, domani là, fermo in un luogo proprietario di una casa, e allora registri e tasse subito. Non mi avrebbero iscritto all'anagrafe, ma sicuramente. E come? Con un nome falso? E allora chissà, forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia? Insomma, impicci e imbrogli. No, via, prevedevo di non poter più avere una casa mia, oggetti miei, ma mi sarei allogato a pensione, in qualche famiglia, in una camera mobiliata. Dovevo affliggermi per così poco? L'inverno mi ispirava queste riflessioni malinconiche. La prossima festa di Natale, che fa desiderare il tepore d'un cantuccio caro, il raccoglimento, l'intimità della casa. Non avevo certo da rimpiangere quella di casa mia. L'altra, più antica, la casa paterna, l'unica che io potessi ricordare con rimpianto, era già distrutta da un pezzo e non da quel mio nuovo stato. Sicché dunque dovevo contentarmi, pensando, che davvero non sarei stato più lieto se avessi passato a Miragno tra mia moglie e mia suocera. Rabbrividivo, quella festa di Natale. Per ridere, per distrarmi, mi immaginavo intanto con un buon panettone sotto il braccio innanzi alla porta di casa mia. Permesso? Stanno ancora qua le signore Romilda Pescatore, vedova Pascal, e Marianna Dondi, vedova Pescatore? Sì, signore, ma chi è lei? Io sarei il defunto marito della signora Pascal, quel povero galantuomo morto l'altr'anno annegato. Ecco, vengo lesto lesto dall'altro mondo per passare le feste in famiglia, con licenza dei superiori. Me ne riparto subito. Rivedendomi così all'improvviso, sarebbe morta dallo spavento la vedova Pescatore. Che lei, figuriamoci, avrebbe fatto rimorire me dopo 2 giorni. La mia fortuna, dovevo convincermene, la mia fortuna consisteva appunto in questo, nell'essermi liberato della moglie, della suocera, dei debiti, delle afflizioni umilianti della mia prima vita. Ora ero libero del tutto. Non mi bastava? Via, avevo ancora tutta una vita dinanzi a me. Per il momento, chissà quanti erano soli come ero io. Pochi giorni dopo ero a Roma per prendervi dimora. Scelsi allora Roma, prima di tutto perché mi piacque sopra ogni altra città, e poi perché mi parve più adatta a ospitare con indifferenza, fra tanti forestieri, un forestiere come me. La scelta della casa, cioè d'una cameretta decente, in qualche via tranquilla, presso una famiglia discreta, mi costò molta fatica. Finalmente la trovai in via Ripetta, alla vista del fiume. A dire il vero, la prima impressione che ricevetti dalla famiglia che doveva ospitarmi fu poco favorevole, tanto che, tornato all'albergo, rimaso a lungo perplesso se non mi convenisse di cercare ancora. Sulla porta, al quarto piano, c'erano 2 targhette, Paleari di qua, Papiano di là. Sotto a questa, un biglietto da visita fissato con 2 bullette di rame, nel quale si leggeva Silvia Caporale. Venne ad aprirmi un vecchio sui 60 anni, Paleari, Papiano, in mutande di tela, coi piedi scalzi entro un paio di ciabatte rocciose, nudo il torso roseo, ciccioso, senza un pelo, le mani insaponate e con un fervido turbante di spuma in capo. «Oh, scusi!» esclamò. «Credevo che fosse la serva. Abbia pazienza, mi trova così. Adriana! Terenzio! Vedi che c'è qua un signore!» «Abbi pazienza un momentino. Favorisca, favorisca. Che cosa desidera?» «S'affitta qua una camera mobiliata?» «Sì, signore. Ecco mia figlia. Parlerà con lei. Su, Adriana, la camera!» Apparve tutta confusa una signorinetta piccola piccola, bionda, pallida, dagli occhi cerulei, dolci e mesti, come tutto il suo volto. «Adriana come me!» «Oh, guarda un po', pensai, neanche a farlo apposta.» «Ma Terenzio dov'è?» domandò l'uomo dal turbante di spuma. «Oddio, papà, sai bene che è a Napoli da ieri.» «Ritirati, se ti vedessi», gli rispose la signorinetta mortificata, con una vocina tenera che, pur nella lieve irritazione, esprimeva l'amitezza dell'indole. Quegli si ritirò ripetendo «Agia, agia», strascicando le ciabatte e seguitando a insaponarsi il capo calvo e anche il grigio barbone. Non potei fare a meno di sorridere, ma benevolmente, per non mortificare di più la figliola. Ella socchiuse gli occhi, come per non vedere il mio sorriso. Mi parve dapprima una ragazzetta, poi, osservando bene l'espressione del volto, m'accorsi che era già donna e che doveva perciò portare, se vogliamo, quella veste da camera che la rendeva un po' goffa, non adattandosi al corpo e alle fattezze di lei, così piccolina. Vestiva di mezzo lutto. Parlando pianissimo e sfuggendo di guardarmi, chissà che impressione le feci in prima, mi introdusse attraverso un corridoio buio, nella camera che dovevo prendere in affitto. Aperto l'uscio, mi sentì allargare il petto. All'aria, alla luce che entravano per 2 ampie finestre prospicenti il fiume. Si vedeva in fondo Monte Mario, Ponte Margherita e tutto il nuovo quartiere dei Prati fino a Castel Sant'Angelo. Si dominava il vecchio ponte di Ripetta e il nuovo che vi si costruiva accanto. Più in là il ponte Umberto e tutte le vecchie case di Tor di Nona che seguivano la voluta ampia del fiume. In fondo, da quest'altra parte, si scorgevano le verdi alture del Gianicolo, col fontanone di San Pietro in Montorio e la statua equestre di Garibaldi. Omero Antonutti ha letto Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, ilterzoanello@rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.